Quando i nemici di Giuda e Beniamino vennero a sapere che i deportati costruivano un tempio, al Signore Dio di Israele, e da Giosuè e dai capi famiglia, e dissero loro: «Vogliamo costruire assieme a voi, giacché anche noi invochiamo il vostro Dio come voi, e gli offriamo sacrifici sin dai giorni di Assaraddon, re di Assiria, che ci condusse qua». Ma Zorobabele, Giosuè e i capi famiglia di Israele risposero loro: «Non tocca a voi e a noi insieme edificare un tempio al nostro Dio. Noi soli edificheremo per il Signore Dio di Israele, così come ci ha comandato il re Ciro, re di Persia». La gente del paese si diede allora a scoraggiare il popolo di Giuda, terrorizzandoli perché non costruissero, e a corrompere contro di essi alcuni funzionari per frustrare il loro progetto. Ciò per tutti i giorni di Ciro, re di Persia, sino al regno di Dario, re di Persia. Durante il regno di Serse, all'inizio del suo regno, essi scrissero una lettera d'accusa contro gli abitanti di Giuda e di Gerusalemme. Ai giorni, poi, di Artaserse, Bislam, Mitridate, Tabeel e altri loro colleghi scrissero ad Artaserse, re di Persia. Lo scritto era in caratteri aramaici e in lingua aramaica. Recum, governatore, e Simsai, segretario, scrissero una lettera del seguente tenore al re Artaserse contro Gerusalemme. Recum, governatore, e Simsai, segretario, e gli altri loro colleghi, i giudici, i controllori, i consoli persiani, gente di Uruk, Babilonia e Susa, cioè di Elam, e degli altri popoli che l'illustre e grande Asnappar ha deportato e stabilito nella città di Samaria e nel resto dell'oltrefiume, eccetera. Questa è la copia della lettera che essi gli inviarono. Al re Artaserse, i tuoi servitori, uomini dell'oltrefiume, eccetera, sia reso noto al re che i giudei, partiti da te e arrivati fra noi a Gerusalemme, stanno riedificando la città ribelle e malvagia, ricostruiscono le mura e riparano le fondamenta. Ebbene, sia reso noto al re che se questa città viene riedificata e le mura ricostruite, né tributo né imposta né pedaggio essi pagheranno più, e alla fine ne saranno danneggiati i re. Ora, poiché noi mangiamo il sale del palazzo e non vogliamo vedere l'ignominia del re, perciò inviamo questa comunicazione al re, affinché siano fatte ricerche nel libro delle memorie dei tuoi padri. E tu troverai nel libro delle memorie, e verrai a sapere, che questa città è una città ribelle, perniciosa ai re e alle province, e vi si fomentano ribellioni sin dai tempi remoti. Perciò questa città fu distrutta. Noi facciamo sapere al re che se questa città viene riedificata e le sue mura ricostruite, non ti resterà di conseguenza nessun possedimento nell'oltrefiume. Il re mandò questa risposta: a Recum, governatore, e a Simsai, segretario, e agli altri loro colleghi che dimorano in Samaria e nel resto dell'oltrefiume, salute, eccetera. La lettera che ci mandaste venne letta in traduzione davanti a me, e da me fu dato ordine di far ricerche. Si è trovato che questa città, sin dai tempi antichi, insorse contro i re, e si compirono in essa sedizioni e rivolte. Vi furono a Gerusalemme re potenti che dominarono in tutto l'oltrefiume, sicché tributi, imposte e pedaggio venivano pagati a loro. Perciò date ordine che quella gente sia messa a freno e che la città non si riedifichi prima che da me ne sia dato ordine. E state in guardia dall'esser negligenti a fare ciò, perché dovrebbe crescere il male a danno del re? Non appena la copia della lettera del re Artaserse venne letta davanti a Rekum e Simsai, segretario, e ai loro colleghi, essi si recarono in fretta a Gerusalemme dai Giudei e li fecero desistere a mano armata. La costruzione della casa di Dio venne sospesa, e sospesa rimase fino al secondo anno del regno di Dario, re di Persia.